casa. 2009. Aprite le orecchie. Capisco ma non tollero che sogni poi si infrangano. Nessun miracolo ma stupri dietro l'angolo. Fotografo a grand'angolo, pezzi di memoria. Sbando traiettoria tracciando la mia storia. Apro la finestra, manca l'aria. Società di immagini ti porta ai margini ed una scelta propria. La tentazione è così ovvia e di sera. 12 anni in discoteca, in bocca una pasticca intera. La vita che vola nell'era del consumismo, dell'omologarsi per essere almeno visto. Cristo, non ci credi manco a Dio, però bestemmi quando tu tutto si riveste nell'oblio. Porco Dio, è il futuro che è vicino. Affronta ogni stimolo, il passato è già lontano. Il potere è in mano, ma nessuno lo sfrutta. Quando sarà la fine non dirmi che ce l'hai messa tutta. Che tu lo voglio o no, è così, ma domani dipende soltanto da noi umani. Domani potrebbe cambiare ma non ci spero. Siamo noi ad allargare questo buco nero. Che tu lo voglio o no, è così, ma domani dipende soltanto da noi umani. Domani potrebbe cambiare ma non ci spero. Ed è inutile pregare o accendere un altro acero. La mente chiede spazio, un minimo di logico. E da contemporanei sentimenti sono espressi con le moti, con l'atomico. La risorsa che mancava scappa prima della perdita radioattiva. E il clima che cambia di conseguenza l'ambiente in questa città. O io non sento più niente. OGM su noi umani sono solo danni. Trucchi su scolarette ma che sembrano trentenni. Si cambiano i termini, amore in apocalisse. Se c'è solo sesso e ti amo per SMS. Stanno sempre accese queste telecamere. Per ogni graffito fatto hanno un volto per l'indagine. L'immagine che vedi frequentemente. Se non ti tagli le vene allora sei contro corrente terrestre, ti han fatto digitale. Mille canali come se non ci fosse un cazzo da fare. Che tu lo voglio o no, è così, ma domani dipende soltanto da noi umani. Domani potrebbe cambiare ma non ci spero. Siamo noi ad allargare questo buco nero. Che tu lo voglio o no, è così, ma domani dipende soltanto da noi umani. Domani potrebbe cambiare ma non ci spero. Ed è inutile pregare o accendere un altro cero. Oggi funziona così, che costa troppo, piantano veleno, strappano radici dal tuo orto. E c'è chi è pronto ed è giocoliere di vite vere. Noi pupazzi e lui burattiniere. Chi vuole cambiare, provare emozioni strane con il sesso virtuale, provare piacere. E chi le sere le spende ai banconi del locale, non trovando le risposte per andarsi a scantare. Lavorare non ti basta il diploma, anni a studiare per poi avere che cosa, scusa? Io domani non lo vedo rose e fiori. Non credo che potrò permettermi di mangiare fuori. No allori, nessuno qua ti regala niente. Domani sarà sempre più pretendente. Sarai un cliente di questa società. Lo sei tuttora, dipende solo da noi se cambierà. Che tu lo voglio o no, è così, ma domani dipende soltanto da noi umani. Domani potrebbe cambiare ma non ci spero. Siamo noi ad allargare questo buco nero. Che tu lo voglio o no, è così, ma domani dipende soltanto da noi umani. Domani potrebbe cambiare ma non ci spero. Ed è inutile pregare o accendere un altro cero.